La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Quella di oggi è la prima volta di Ramin Bahrami, un pianista iraniano di grande talento, divenuto tra i massimi esperti ed esecutori di Bach. Una vita, quella di Bahrami, fatta di salti in avanti, di rotture e ricomposizioni che passano soprattutto da una ricerca spirituale, un'esistenza, una profondità messa a disposizione degli altri, come avrete modo di sentire in questa intervista. Io sono nato quasi 40 anni fa, cioè 39 anni fa, a Teheran, nella meravigliosa, nella bellissima Persia, nella capitale della Persia, e praticamente la Persia si può definire veramente una culla contrapuntistica, la culla del contrappunto, perché è stato sempre un paese che ha abbracciato più culture e più etnie diverse, è un paese indoeuropeo, situato nel Medio Oriente, per cui con una propria identità culturale, una propria caratteristica. Ecco, e questo mi ha sempre permesso di guardare un po' anche alla mia famiglia con gli occhi, tra virgolette, contrappuntistici, nel senso che io sono un insieme di culture, perché mia madre è persiana ma di origini russo-turche, mio padre era metà tedesco, metà persiano. Quando hai la fortuna di nascere in un paese che nel corso della sua storia ha sempre ospitato più elementi diversi tra di loro, più culture, più etnie, più idiomi, senza che ci fosse il minimo conflitto, e poi avere la propria famiglia in questo cosmopolita, mi ha permesso di abbracciare tutte queste culture senza mai far prevalere una su un'altra. Questo per quanto riguarda l'aspetto proprio familiare. Allora, io dico sempre, non sei tu che ti avvicini a Bach, ma è Bach a sceglierti, perché lui, attraverso la grandissima lezione, attraverso questa amica persiana che era appena tornata da Parigi con un LP del sommo pianista canadese Glenn Gould, che io ascoltai a 5 anni, praticamente ho capito che dovevo avvicinarmi a Bach. Cioè Bach entra nella tua vita e non ti abbandona mai, se ovviamente il destino lo decide. Se tu vuoi forzare la cosa, è molto difficile. Ecco, io ero a casa di questa amica persiana appena tornata da Parigi e ascoltai per la prima volta questo LP, che avevo 5 anni e mezzo, e mi fu totalmente chiaro che avrei dovuto dedicare la mia vita artistica alla diffusione, all'amore, ecco, per questo gigante dell'umanità, forse per quello che io considero il più grande compositore di tutti i tempi, cioè il più grande compositore di ieri, di oggi, di domani, e anche, se vuole, malgrado i suoi 300 anni che passa, il più giovane, paradossalmente. Ecco, questo amore, questo legame, questa scelta anche appunto di seguire Bach, in qualche modo l'ha aiutata anche ad affrontare dei momenti di grande passaggio, di grande difficoltà. Uno tra tutti è il suo arrivo con la sua famiglia in Europa, mentre suo padre rimaneva in prigione. Sì, bravissima, sì. E c'è questa cosa che mi ha colpito molto e mi ha anche emozionato molto, questa lettera di suo padre, e in parte lei l'ha già detto in questa risposta, nella prima risposta, la lettera di suo padre dalla prigione, nella quale scrive: frequenta Bach, non ti lascerà mai solo, ed è stato così evidentemente. Esatto. Esatto, questa è stata praticamente la sua eredità, perché mio padre, avendo avuto rapporti molto stretti con la famiglia imperiale in quanto consulente delle scuole moderne e un uomo dedito alla cultura, come tutta la mia dinastia paterna, perché non c'è, al di là del sottoscritto che poi si è dedicato all'arte delle muse, tutti i miei avi, cominciare dal mio nonno che è stato il maggiore archeologo persiano e il primo studente persiano mandato dal padre dello Shah di Persia a studiare alla Sorbona, il primo laureato in archeologia alla Università di Sorbona mandato dalla famiglia imperiale, e non soltanto lui ma parenti, i suoi cugini erano per esempio nella medicina, eccellenza, eccetera, eccetera. Dicevo, ecco, questo padre che aveva fatto così tanto per la cultura, che purtroppo non aveva più voce, decise che la migliore voce da lasciare in eredità al figlio non poteva essere, e lui, essendo metà tedesco, nato a Berlino, naturalmente non poteva lasciare eredità migliore se non colui che ha realizzato la più grande democrazia, polifonia e vivere civile nella musica che Johann Sebastian Bach. E infatti in quella lettera io la conservo, proprio questa frase, la frase che più colpisce: ascolta Bach, veneralo, che non ti lascerà mai solo. È bellissima anche questa interpretazione politica, no? della musica di Bach, questa spinta verso la democrazia, quello che ha appena detto, quello che lascia nel complesso questo musicista e quello che lei riesce a leggere suonando sì, la sua musica. Assolutamente sì, perché Bach è il maestro di far dialogare le voci che apparentemente sono più... Per esempio, se l'Occidente oggi imparasse la polifonia che Bach ha realizzato unendo tutte le culture musicali del mondo nella sua musica e facendo parlare liberamente ogni voce con un'altra senza che questi abbiano conflitti. Se questo si realizzasse nella politica di oggi, che è molto più retrograda rispetto a qualsiasi pezzo di un Johann Sebastian Bach, purtroppo lo dobbiamo ammettere. Abbiamo Twitter, abbiamo Facebook, abbiamo il computer, ma in realtà abbiamo perso l'umanità, abbiamo perso il dialogo, abbiamo perso gli ideali, perché io non posso accettare che nel paese della cultura, come è l'Italia, ci sia un festival, per esempio, delle canzonette da quattro soldi che si sostituiscono a Leonardo da Vinci, a Claudio Monteverdi, a Cimabue, Giotto, dove queste cose, che sono la vera eccellenza italiana, oltre al saper vivere vostro e ai vostri monumenti, perché è un paese che ha delle bellezze come Venezia, come Roma, non può permettere, pur avendo io non posso che sottoscrivere l'intervista del grande maestro Riccardo Muti qualche tempo fa al Corriere della Sera, in cui ha detto ovviamente c'è rispetto per ogni forma musicale, ma la musica con la M maiuscola è una cosa e le canzonette che vanno rispettate, che sono un patrimonio umano importantissimo, sono un'altra cosa. Ecco, io penso che i politici, Bach ci insegna che insomma ogni cosa ha il proprio spazio e non è che una cosa deve per forza distruggere le altre, ma adesso la tendenza che c'è nel mondo è quello di distruggere tutto ciò di bello che abbiamo costruito. Ma secondo lei perché? No, guardi, è molto semplice, perché il sistema ha bisogno di fare profitto. Il Dio denaro è l'unico Dio che la nostra società moderna purtroppo ha oggi. Il profitto, il consumismo devono essere soddisfatti, le fabbriche devono vendere. Il profitto è la cosa più importante. Ci fermiamo qualche istante per poi continuare questa conversazione. La prima volta. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. La prima volta. Ramin Bahrami ha 11 anni quando da Teheran arriva a Milano. L'Italia doveva essere un paese di passaggio e invece lui e la sua famiglia restano. Poi una borsa di studio gli permette di compiere gli studi al Conservatorio di Milano. Il padre era in carcere a Teheran, vittima della rivoluzione iraniana. E negli anni in cui Ramin, ragazzino, suonava al Conservatorio, quel padre moriva. Fu però una figura di grande riferimento per Bahrami, una persona capace di infondere l'amore per la bellezza soprattutto. Diciamo sostanzialmente nell'antichità c'erano tre criteri che contavano. Quello persiano, subito dopo quello greco e dopo i greci arrivavano i romani. Abbiamo fatto la storia della civiltà umana e adesso siamo tre paesi che non sanno salvaguardare le loro bellezze e non sanno più essere da esempio, portano solo cattivi esempi. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riscoprire anche attraverso la lezione di Bach il culto della bellezza e dobbiamo imparare ad andare d'accordo, perché dove c'è soltanto profitto, dove ci sono soltanto guerre, dove c'è soltanto la voglia di sbattere fuori lo straniero, non si arriva da nessuna parte. La differenza è ricchezza e questo è importante. Io per esempio ho il privilegio di questo magari parliamo in maniera approfondita. Io ho avuto questo privilegio di essere sostenitore artisticamente della Fondazione Vida, un esempio di altruismo, di eccellenza italiana nel mondo, ideato inizialmente dalla signora Cavazzoni. Ecco, e oggi è precisamente portato avanti insieme sempre alla signora Cavazzoni, dal professor Ferruccio De Bortoli e tutta l'equipe eccellente della Vidas, in cui c'è spazio per la sofferenza, per la gioia, per la bellezza. E il nostro evento del 16 marzo al Teatro Dal Verme di Milano, con un'altra eccellenza italiana che sono i solisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con cui eseguirò la mia ultima fatica discografica per Decca, l'offerta musicale, che a sua volta è un'altra eccellenza, di come un politico illuminato come Federico II il Grande di Prussia, questo re illuminatissimo che amava la musica di Bach, che ha costruito il castello di Sanssouci, ha unito veramente la buona politica alla bellezza e a una dimensione ultraterrena di sentimenti, perché l'offerta musicale è questa. Cioè tutto quello che io ho detto fino adesso raccolto in questo capolavoro che Das Musicalisches Oper, perché una volta i re suonavano il flauto, componevano, per cui quando Johann Sebastian Bach arrivò al castello di Sanssouci, cioè senza pensieri, a Potsdam, anziché parlare soltanto di politica, gli diede, si dice, almeno la leggenda dice, poi io ho altre teorie, ma si dice la leggenda che Federico II il Grande diede a Bach un tema e gli chiese di improvvisarci sopra una fuga inizialmente a tre voci, poi gli chiese altre elaborazioni e poi per complicare la cosa, visto che Federico II suonava il flauto, gli chiese di farci una fuga a sei voci e Johann Sebastian si mise al cembalo e fece questa cosa. Ecco, dobbiamo imparare questo, che il conflitto, la bellezza, la cultura, bisogna dirlo ad altissima voce questa cosa, porta profitto, la cultura è ricchezza. Lei pensi all'Austria, l'Austria, a parte i cioccolatini Mozart Kugeln, che tradotto in italiano le palline di Mozart, e le sue montagne e il festival di Salisburgo ha ben poco, ed è uno dei paesi più civili, più avanzati, più benestanti dell'Occidente. L'Italia quante cose potrebbe fare, la Persia quante, se tutte le cose andassero d'accordo come nel mondo di un Federico II il Grande o di un Johann Sebastian Bach. Ecco, uniamo la solidarietà alla cultura, la cultura alla solidarietà, la bellezza come identità salvifica per salvarci dalle brutture. Ecco, soltanto facendo una sinergia molto complessa, penso che il mondo si possa salvare. E tutto questo sarà possibile ascoltarlo nella sua esecuzione, come diceva, nel concerto del 16 marzo alle 21 al Teatro Dal Verme a Milano. Sarà una serata speciale soprattutto perché sosterrà il lavoro dell'equipe pediatrica a domicilio di Vidas e anche il progetto della costruzione della casa sollievo dei bimbi. Assolutamente sì, io sono onorato perché la casa del sollievo avrà il compito di sostenere i bimbi terminali, per cui questa è una grandissima lezione di civiltà, di cultura, di bellezza. Cosa può esserci di meglio che la musica rasserenante, conciliante del più grande compositore di tutti i tempi? Ma le dico un'altra chicca, per chi avesse voglia, ci saranno anche, sarà anche un video mapping, ci sarà un viaggio multimediale vivo, perché le immagini del castello di Sanssouci avranno proprio la possibilità di essere, di avvolgere il pubblico durante l'esecuzione, per cui avremo l'arte visiva che si avvicinerà a quella sonora, per cui in questo senso molto vicino anche, se vuole, al cristianesimo, che per me è stata una folgorazione. Io in un momento di crisi esistenziale, dove non volevo mai suonare, ecco, rifiutavo qualsiasi concerto, ecco, entro in una chiesa meravigliosa dopo una faticosissima tournée in Sud America, anzi per essere più precisi nel Messico. Ecco, io sono tornato che praticamente non volevo più toccare lo strumento e entrando dove avevo un concerto poi nel Veneto, al mio ritorno in Europa, una chiesa meravigliosa, e entrando nella sagrestia che io usavo come camerino, per puro caso trovo per terra un santino di un Monsignor Lebrun, così il famoso Monsignor Lebrun, che c'era un'immagine di Cristo meravigliosa e diceva: amami come sei, so che non sei un angelo, so che non sei perfetto, ma tu mi devi amare così come sei. Ecco, può passare più tardi, signora, perché ho una telefonata in costante, grazie. Allora, sono sul cielo, allora ho chiesto alla... Allora, non le dicevo, e questo mi fu chiaro che dovevo reagire. Per cui la bellezza, perché ho raccontato questo piccolo episodio? Perché la bellezza, la cultura possono essere i nostri migliori alleati contro le malattie, contro le brutture, contro le incomprensioni. La prima volta termina qui. Vi rimandiamo alla nostra pagina per riascoltare le puntate, oppure se volete venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 La prima volta. Vi ringrazio per essere stati con noi. Un saluto da Cristina Carpinelli.